mi sai dire qual è il nome? La nostalgia di quelle cose mai vissute per davvero Fumare solo di nascosto, vederti e dire non capisco niente Ammetto sì, io sono persa, di te sono persa Ti prego dimmi come chiami, la voglia che ho di sussurrare Andiamo a bere finché è facile anche dirci ci vogliamo Ho troppa voglia di conoscere, il mio carattere è difficile Vorrei riuscire a non cambiare idea ogni due ore Oggi vorrei solo ballare, sto pericolosamente bene Eppure c'è qualcosa che mi tiene i piedi a terra Ho fatto anche cose proibite ma senza leggi né morale Non ho colpa, senza colpa non ho colpa Facile dire stavo meglio prima per forza Dire stavo meglio solo per forza Per provare il brivido di un'emozione nuova che forza Dire stavo meglio prima facile Dire stavo meglio solo per forza Per provare il brivido di un'emozione nuova che forza E se la nostalgia è per vecchi Allora oggi ho 90 anni Vibra piano nel mio corpo Senza pubblico, sospesa ai calci di rigore Ti prego parla, non mi voglio addormentare Di stare al buio oggi non sono pronta Anche se tuo carisma brilla Respira forte che ti cerco con le labbra Ma dopo portami nella tua testa Vorrei scriverti una lettera Scoppierà a ridere pur sempre una festa Oggi vorrei solo ballare Sto pericolosamente bene Eppure c'è qualcosa